Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, oggi parliamo di una grande passione collettiva che domina ormai la nostra vita, i nostri schermi, i nostri libri, e cioè la cucina. Una passione alla quale non sempre corrisponde una gran voglia di cucinare noi stessi nelle nostre cucine, e invece proprio a questo ruolo ci vuole convertire il libro di un giornalista e scrittore americano, Michael Pollan, che si intitola Cotto, è pubblicato da Adelphi, 506 pagine, 28 euro, ed è tradotto da Isabella Blum. Pollan è un appassionato di alimentazione al quale ha già dedicato vari libri, e qui si misura appunto sul tema del recupero della capacità individuale, personale di cucinare. Lui lo ha fatto mettendosi a preparare brasati, ma anche addirittura la birra e il pane, e qui ci spiega perché cucinare, rinunciando ogni tanto alle tentazioni della cucina pronta, dei cibi industriali e precotti, sia una cosa positiva. Lo fa considerando quattro elementi che fanno il cibo preparato dalle mani umane: il fuoco, e questo capitolo riguarda ovviamente la cottura alla brace e il barbecue nelle sue varianti; l'acqua, che riguarda la preparazione delle verdure e delle carni lesse; l'aria, e qui si parla di lievitazione, dunque principalmente di pane; e la terra, che riguarda la fermentazione degli ortaggi, del latte e dell'alcol, e dunque qui parliamo sia di formaggi che di birra o di crauti. Questo non è un libro di cucina, ma un percorso per comprendere il valore culturale della pratica culinaria, di cui Pollan esplora i significati anche sociali, invitandoci a vedere nella cucina, nel cucinare direttamente, anche un modo per misurarci in maniera diversa con l'ambiente. Qui addirittura Pollan cita lo scrittore e agricoltore Wendell Berry, di cui abbiamo parlato un paio di settimane fa, e proprio su questo lo sentiamo. Buonasera a Michael Pollan. Good evening, Salvatore. Michael Pollan, lei comincia il suo libro con due paradossi. Il primo è che meno cuciniamo, più parliamo di cucina, e il secondo paradosso è che meno cuciniamo e più mangiamo. Come spiega questi due paradossi? I think we're very confused about food these days, and you know, even as cooking becomes a fading art. Io credo che oggi siamo molto confusi sul cibo, e anche se quella della cucina è una forma d'arte che sta scomparendo e che molta gente preferisce i fast food ad altre forme di cucina industriale, siamo ancora affascinati dall'idea di cucina. Guardiamo gente che cucina in televisione e ci piace andare al ristorante, dove vediamo persone che cucinano per noi. Secondo me questo dimostra che in qualche modo il fatto di cucinare ci manca. Istintivamente ci rendiamo conto di quale importante attività umana sia la cucina. È qualcosa che ci definisce come specie. Pensiamo di non avere tempo e siamo tentati dai fast food, ma allo stesso tempo sappiamo quanto sia importante cucinare. Riguardo al secondo paradosso, penso che lei abbia ragione. Meno cuciniamo, più mangiamo. E il motivo è che permettiamo all'industria di cucinare il nostro cibo. Lo fa in modo diverso da come lo fanno gli esseri umani. Utilizzano molto sale, grassi, zuccheri, che rendono il cibo molto invitante. Il loro scopo è far sì che noi mangiamo più del necessario, perché più mangiamo e più loro guadagnano. Ed è per questo che se rinunciamo a cucinare, mangiamo di più. Lei scrive infatti, o ricorda, che la cucina definisce la natura umana, che la cucina ha trasformato l'umanità. Insomma, noi siamo più quello che cuciniamo di quello che mangiamo? La cucina definisce ciò che siamo. E se facciamo un salto indietro nel tempo, scopriamo che quello che ci ha resi più intelligenti rispetto agli altri primati è stata la scoperta del fuoco. Si può usare il fuoco per trasformare il cibo, per renderlo più nutriente, più facile da digerire. E quando questo è avvenuto, circa 2 milioni di anni fa, è stato un evento educativo molto importante. È stato questo che ci ha resi umani, che ci ha modificati non solo biologicamente, ma anche socialmente. Perché iniziando a cucinare abbiamo iniziato anche ad avere dei pasti. Prima che si iniziasse a cucinare, tutti mangiavano come degli animali. Dovunque trovassero del cibo, si mettevano a mangiarlo sul posto. La cucina è un'attività di cooperazione. La gente deve lavorare insieme. Qualcuno si deve occupare del fuoco, bisogna imparare ad essere pazienti e aspettare che il cibo sia pronto, e dobbiamo imparare a condividere con gli altri quello che abbiamo cucinato. I pasti sono la base della civiltà, è attorno al fuoco che abbiamo imparato a diventare umani. It's around that fire that we learn how to be human. Definendo la cucina come una rete di relazioni sociali ed ambientali, lei comincia proprio dalla famiglia. Ecco, qual è questo genere di relazioni? Yes, and even today, I mean, sì, ed è così anche oggi. È attorno alla tavola che insegniamo ai nostri figli ad essere civili. È lì che impariamo l'arte della democrazia. Spieghiamo ai nostri figli come condividere, come mangiare a turno e come discutere senza arrivare a lottare. Attorno alla tavola si prendono lezioni di educazione civile. E quello che sta accadendo ora è che sempre più spesso non condividiamo i pasti, mangiamo da soli, mentre siamo in viaggio, mangiamo in auto. Attualmente negli Stati Uniti il 20% del cibo viene consumato in macchina e non si può avere un grande scambio sociale se si mangia in auto. Lei scrive che in ogni piatto noi possiamo trovare gli ingredienti di una storia, con un inizio, uno sviluppo e una fine. Insomma, cucinare dà le stesse emozioni che scrivere? La cucina e la scrittura hanno molte cose in comune. Ogni piatto che prepariamo è una storia di trasformazione che inizia con la natura, con le piante, con gli animali, i funghi. Li trasforma in qualcosa che è culturale, oltre che naturale. E questo è quello che fa anche chi racconta delle storie. Prende i materiali grezzi e li trasforma in qualcosa di molto bello e molto umano. Quindi cucina e scrittura hanno molte cose in comune. Nel suo libro, a un certo punto, lei ricorre a un'immagine particolare, cioè dice che la cucina è una specie di voto. In che senso? Quando si cucina, è come se si votasse per un certo tipo di cibo. Si vota per mettere un controllo alla propria vita. E l'unico modo per tenere sotto controllo la propria dieta è quello di cucinare noi stessi il nostro cibo. Altrimenti saranno gli altri a controllare la nostra dieta. Credo che cucinare sia un atto politico ed è anche un atto di agricoltura, perché quando cucini acquisti degli ingredienti, decidi da chi li vuoi acquistare, se da produttori locali o nel supermarket. Così, di fatto, votiamo il tipo di agricoltura che vorremmo avere. Mano a mano che in America si è persa l'abitudine di cucinare, abbiamo assistito a cambiamenti nell'agricoltura, che è diventata a larga scala, industriale, dedicata alla monocultura. Campi giganti che hanno una sola coltivazione, anziché avere quella diversità che sarebbe migliore per l'ambiente. Quindi credo che non si possa separare la cucina dall'agricoltura e dalla politica. Nel suo libro lei spesso cita Lévi-Strauss, in particolare un passo nel quale il grande studioso francese dice che l'uomo vuole che il suo cibo sia buono anche da pensare. Ecco, noi siamo ancora capaci di pensare a un cibo buono da pensare? Gli esseri umani hanno un rapporto con il cibo diverso da quello degli altri animali. Per la maggior parte degli animali, il cibo è solo carburante, è solo energia. Per noi invece è più complicato. Per noi riguarda la comunità, il modo in cui ci relazioniamo agli altri, è il modo di esprimere il nostro amore per la gente a cui diamo da mangiare. Perfino i nemici si siedono a tavola, come avviene ad esempio quando i leader politici fanno un summit seduti a tavola. Usiamo il cibo anche per crearci un'identità. Identifichiamo noi stessi in base a quello che mangiamo e a quello che ci rifiutiamo di mangiare. Il cibo è cultura per gli esseri umani e lo è solo per loro. Abbiamo una relazione speciale con il cibo e Lévi-Strauss questo l'aveva capito. Aveva capito che il cibo è come noi trasformiamo la natura in cultura e diventiamo quello che siamo. Una lunga parte del suo libro è dedicata alle questioni di genere. Insomma, la cucina è un'attività esclusivamente femminile? Per troppo tempo cucinare è stato responsabilità della donna all'interno della famiglia e questo non era giusto. Era una situazione inaccettabile, soprattutto quando le donne hanno iniziato a lavorare. Credo che cucinare debba essere un'attività condivisa, che uomini, donne e bambini siano assieme in cucina e cucinino assieme. Se assegniamo questa responsabilità solo alla donna, è ingiusto, è una questione di uguaglianza. Qualcuno interpreta il bisogno di ritornare a cucinare come il bisogno che la donna ritorni alle faccende domestiche, ma non è assolutamente questo che intendo. And that's not what I mean at all. Lei conclude il suo libro con un'immagine dalla Corea, e cioè sottolinea l'importanza di trovare il gusto della mano, non soltanto della lingua. In che cosa consiste questo gusto della mano? Well, you know, I went to Korea to learn how to make kimchi, the fermented cabbage. Sono andato in Corea per imparare a fare il kimchi, il piatto a base di cavolo fermentato che i coreani utilizzano per ogni pasto. E ho lavorato con una donna anziana che era un'esperta di preparazione del kimchi e che mi ha spiegato che il processo lunghissimo e laborioso che obbliga a cospargere ogni foglia del cavolo con il peperoncino e il sale permette di valutare la differenza tra il cibo che viene preparato con amore e con attenzione, fatto con le mani anziché da una macchina. Penso che questa sia una cosa che gli italiani capiscono bene. Quando si mangia la pasta fatta a mano è come se ci fosse un ingrediente misterioso che la rende speciale e che la rende superiore ai piatti realizzati industrialmente. Ed è quello che i coreani chiamano gusto delle mani. È il gusto delle mani che hanno creato il cibo. È una bella immagine e rappresenta qualcosa che stiamo rischiando di perdere. In questi giorni in cui si è fermato in Italia, che ricetta ha imparato e porterà con sé negli Stati Uniti? Non ho ancora imparato nessuna ricetta, ma ho assaggiato dei piatti deliziosi, come mi capita sempre in Italia. Qui a Mantova ho trovato speciali i tortelli di zucca. La mostarda e la zucca li rendono molto dolci. È un piatto bellissimo. Vorrei imparare a farli. Grazie a Michael Pollan. Buona serata. Thank you, Salvador. Good evening. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carrubba, abbiamo parlato con Michael Pollan di cibo, dell'alimentazione, dell'importanza della cucina e vi ricordo che un capitolo di quel libro è dedicato al pane. E allora vi segnalo il libro di Davide Longoni intitolato Il senso di Davide per la farina, pubblicato da Ponte alle Grazie, 144 pagine, 13 euro. L'autore è un panificatore, figlio di panificatori della Brianza, e qui ci dà attraverso una serie di esperienze e di viaggi un personale percorso sul pane che per lui deve essere di grande formato a lievitazione naturale da pasta madre con farine da cereali minori macinate a pietra. Longoni tra l'altro è tornato al pane, che era un'attività di famiglia, come vi dicevo, dalla quale egli si era distaccato dopo una laurea in lettere e un lavoro di fotografo. Torna al pane quando scopre la possibilità di produrre un pane ben diverso e di qualità molto migliore di quella alla quale era abituato, grazie soprattutto alla scoperta del lievito madre, che sia lui che Pollan nel libro che vi ho appena citato insegnano addirittura a produrre a casa nostra. E quindi qui nel libro di Longoni capiamo perché il pane sia, come lo definisce, gioia, arte e rivoluzione, come scrive nella sua conclusione, dove ricorda le parole di un panificatore canadese che ha scritto addirittura un panifesto come pane, nel quale il canadese scrive: noi uomini abbiamo bisogno di un pane che fermenti con delicatezza, che nutra degnamente l'appetito, e di parole altrettanto pacate, che aprono il cuore all'intelligenza e all'avventura del vivere e che ci diano coraggio. Gli chef sono di gran moda e allora vi parlo di uno dei più famosi, ma anche forse uno dei più appartati, e cioè Romano Tamani, il settantenne patron del ristorante Ambasciata di Quistello, vicino a Mantova, che racconta la propria avventura nel libro Diario di un lavapiatti di campagna, pubblicato da Bompiani, 228 pagine, 17 euro. Come avete sentito dal titolo, il libro è all'insegna dell'understatement, che così l'autore spiega: sono nato servitore e ho sempre sentito la gioia di servire. Se uno ha il dono della fede fa il sacerdote, io ho avuto quello della cucina e ho sempre fatto da mangiare per gli altri. Una specie di missione. C'è chi si dedica al nutrimento dell'anima e chi a quello del corpo. Io ho scelto la seconda strada. In realtà, come dice Vittorio Sgarbi nella prefazione, Romano Tamani è una sorta di celebrante, il sacerdote di un culto del piacere, scrive Sgarbi, senza imposizione e dogmi, ma con un'euforia e uno stato d'animo che ogni cosa rende vibrante. È un uomo di profonda umiltà, aggiunge Sgarbi, di origini semplici, che coltiva il nostro benessere. Mi sono attaccato alla fame, scrive lui, lo chef, e l'ho trasformata in un lavoro. E nel libro si parla innanzitutto della civiltà contadina della bassa dalla quale egli proviene, poi naturalmente della sua formazione, della sua carriera, con certe sorprendenti immagini, come una che ci riguarda noi che facciamo e ascoltiamo la radio. La cucina è come la radio, si gusta a occhi chiusi. Un personaggio molto attento ai piaceri della tavola e, per la verità, ai piaceri della vita fu un pontefice molto famoso, Giulio II della Rovere. Fu papa dal 1503 al 1513. Giulio II è una figura molto discussa storicamente, fu un condottiero, un autentico signore rinascimentale più che una guida spirituale. Certamente era molto lontano dal pontefice attualmente regnante. Giulio II era ambizioso, dispotico, bellicoso e nella sua smodata ricerca del fasto e del lusso si rivelò un grande protettore delle arti, in particolare di Michelangelo, al quale affidò la realizzazione degli affreschi della Cappella Sistina, e di Raffaello, che per lui dipinse le stanze vaticane. Come papa, dicevo, non fu considerato un granché neanche ai suoi tempi. Prova ne sia il dialogo che adesso vi propongo, un dialogo dalla firma illustre Erasmo da Rotterdam e si intitola appunto Giulio, pubblicato da Einaudi, 172 pagine, 28 euro, curato e tradotto da Silvana Seidel-Menchi. Questo dialogo riguarda Giulio e il suo illustre predecessore, San Pietro, che si rifiuta di farlo entrare in paradiso quando Giulio II si presenta dopo la sua morte, accusandolo di ogni nefandezza. Giulio si infuria, difende il proprio operato e a un certo punto rimprovera aspramente proprio San Pietro, accusandolo tra l'altro di essere un fallito, un mezzo poveraccio, come spiega in queste righe. Forse tu continui a vagheggiare quella vecchia chiesa, nella quale tu, attorniato da qualche vescovo affamato, figuravi da pontefice impotente, esposto all'indigenza, al sudore, ai pericoli e a mille disagi. Ebbene, il tempo ha cambiato tutto in meglio. Il pontefice romano oggi è cosa completamente diversa. Tu eri pontefice soltanto di nome e di facciata. Che cosa diresti se vedessi oggi tanti templi sacri costruiti con principesca dovizia? Dappertutto un pullulare di migliaia di sacerdoti, per la maggior parte dotati di entrate larghissime. Tanti vescovi che per armi e facoltà possono reggere il confronto dei re. Tanti magnifici palazzi di chierici. Ma specialmente se tu vedessi a Roma tanti cardinali vestiti di porpora attorniati da schiere di servi. Tanti cavalli più che principeschi, tanti muli bardati di bisso, d'oro, di gemme, alcuni addirittura muniti di zoccoli d'argento. Se infine tu vedessi il supremo pontefice ergersi sublime nella sua portantina d'oro, portato a spalla dai soldati, in mezzo all'adorazione generale che si accende al gesto della sua mano. Se tu sentissi lo scoppio delle bombarde, lo squillo delle trombe, il rombo dei corni, se vedessi il lampeggiare delle artiglierie, le urla del popolo, le acclamazioni e dappertutto un luccicare di fiaccole, se tu vedessi che anche i principi eccelsi vengono con difficoltà ammessi al bacio dei piedi beati, se tu avessi la facoltà di osservare il gran sacerdote di Roma incoronare della corona d'oro e incoronare con il piede l'imperatore romano, il quale dovrebbe essere il re dei re, ebbene, se tu vedessi e sentissi tutto questo, che cosa potresti dire? Il libello di una cinquantina di pagine che qui troviamo nell'elegante testo latino e nella traduzione fu pubblicato anonimamente nel 1517, quindi pochi anni dopo la morte di Giulio II, ed ebbe subito una vasta diffusione in tutta Europa. E infatti la stessa curatrice scrive: il dialogo Giulio apre un'incrinatura nell'icona di Erasmo come santo patrono della coscienza europea dell'età moderna. Negli studiosi del suo pensiero e della sua vita l'operetta genera un oscuro disagio, proprio perché appunto Erasmo ne aveva in qualche misura rifiutato la paternità. E del resto lo stesso Erasmo, questa è una citazione pure ricordata dalla curatrice, aveva scritto: i sapienti dispongono di due lingue, con una dicono quello che è vero, con l'altra quello che giudicano opportuno dire in base alle circostanze. Insomma, meglio gettare il sasso e nascondere la mano. Ma la curatrice invece difende Erasmo e quindi smentisce, vuole distruggere questa interpretazione, e perché per lei Erasmo scrisse questo libello piuttosto come irrefrenabile manifestazione del suo sdegno contro la decadenza della Chiesa di allora e come una manifestazione della propria libertà. Ma lo fece fece segreto riservatamente di essere stato lui l'autore di questo libello. Allora perché non lo pubblicò col suo nome? Probabilmente, dice la curatrice, perché nel frattempo era esplosa la riforma di Lutero, alla quale Erasmo non aveva aderito, che mise in crisi il doppio canale di comunicazione al quale era abituato Erasmo, quell'ufficiale riservato a opere che potevano essere stampate anonimamente per il largo pubblico di allora, e invece quello a circuito chiuso, come lo chiama la curatrice, in ristrette cerchie di amici e di umanisti stretti da un legame di riservatezza. In sostanza, Erasmo non avrebbe confessato la paternità dell'opera per non cadere nelle beghe, nelle polemiche che Lutero faceva in maniera sempre più battagliera nei confronti della Chiesa, e mantenersi al di fuori di questa polemica. E quindi l'opera diventa, oltre che una lettura appassionante, anche per la cupa grandezza che emerge di Giulio II, anche perché ci introduce in uno dei periodi più vivaci e drammatici che hanno introdotto l'età moderna. In questi giorni comincia in tutta Italia l'anno scolastico, auguri a tutti gli allievi, si parla tanto di riforma della scuola, in particolare il Presidente del Consiglio ha parlato di reintrodurre l'educazione civica, e allora vi segnalo un libro importante da questo punto di vista per anche capire di che cosa stiamo parlando. È un libro di Luciano Corradini, che è un docente universitario, è stato anche sottosegretario tecnico alla pubblica istruzione, e si intitola La Costituzione nella scuola, ragioni e proposte, pubblicato da Erickson, 126 pagine, 10 euro. L'autore è stato presidente di una commissione ministeriale proprio sull'insegnamento dell'educazione civica nel 1995, e poi ha partecipato a vari altri gruppi ministeriali su questa questione. Purtroppo pochi passi avanti sono stati fatti, nonostante ci sia stata una legge nel 2008 che ha istituito la materia cittadinanza e costituzione, che è rimasta fino adesso lettera morta. E qui troviamo in questo libro una guida per capire il valore anche pedagogico della Costituzione e il modo in cui la si possa insegnare, superando anche le polemiche e le obiezioni che non sono mancate. Come osserva un grande costituzionalista, cioè Valerio Onida, nella sua prefazione, è opportuno che a scuola si leggano integralmente e si commentino i testi più rilevanti per la vita della società e delle istituzioni, a partire dalla Costituzione repubblicana. E a questo punto, il confettino. Abbiamo parlato di cucine, e allora vi segnalo un giallo che è ambientato proprio nelle cucine. Si intitola Indagini in una cucina di Mila Venturini, con l'illustrazione di Sara Gavioli, e fa parte di una serie di bianco e nero nella quale è comparso anche Attacco a Gattaca di Alessandro Cini. Ognuno costa 8 euro, 64 pagine. E con questo ringrazio Luca Cremonesi, redazione, Roberto Scaltritti, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it. dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.